prima, scusate, nella fretta e nella concitazione dei fogli sono in corso in una imprecisione che vorrei correggere. Avevo detto che per la Francia il caso dei nunzi visitatori si poneva in maniera molto limitata. In realtà il discorso era diverso, cioè io volevo dire prima, in un altro punto della relazione, che in Francia, seguendo una precisazione, un intervento di Venard precedente, che in Francia le visite apostoliche, tolto alcuni piccoli casi, cioè Avignone e la Lorena, le visite apostoliche non prendono piede. E quindi ecco, era una esemplificazione totalmente diversa quella che intendevo fare rispetto al caso dei nunzi visitatori, che invece in Francia ci sono. Ecco, chiedo scusa, era una imprecisione dovuta a questa rimescolamento di carte. Grazie. Allora. No, a questo punto chiederei a Claudio Donati di darci qualche cenno del quarto punto che è rimasto incognito. Potrei essermi inventato, invece no, invece esiste. Però insomma, approfittiamo della situazione. Benissimo, grazie. Ecco, tra l'altro il mio quarto punto in fondo si ricollega cronologicamente a dove aveva terminato la Federico, nel senso che l'ultima visita a Trento fu appunto sotto il vescovato di Cristoforo Sizzo, e successivamente fino mi pare al 1825 non ci sono visite. Non è del resto un caso tipico di Trento, l'epoca tardo settecentesca e primo ottocentesca, con gli sconvolgimenti che porta, determina anche spesso una stasi della tradizionale attività episcopale delle visite e dei sinodi. Ecco, comunque questo non significa che in quel periodo, anzi, non ci sia non debba esserci interesse per quello che riguarda il governo episcopale. E il vicario vescovile dal 1773 al 1807 o 12, insomma, lì poi c'è un problema che adesso non posso affrontare. Comunque dal 1773 e per tutto questo lungo periodo, e comunque sicuramente fino alla secolarizzazione del Principato Vescovile, è questo Simone Albano Zambaiti, di famiglia patrizia trentina, di famiglia cittadina trentina, decorata di un titolo di nobile del Sacro Romano Impero alla fine del 600, era tipico a questo riguardo. E è molto interessante che nell'attestato di nobiltà rilasciato a questo personaggio nel 1790 si dica appunto che la nobiltà della sua famiglia è soprattutto accresciuta dal fatto che ha nelle sue file un canonico e vicario vescovile. Questo può essere abbastanza interessante anche per comprendere come questa carica di vicario vescovile abbia ormai assunto un peso tale da poter essere utilmente utilizzata, diciamo così, in un documento attestante la nobiltà della famiglia. Questo Simone Albano Zambaiti era nato nel 1744. Ecco, è molto interessante dove studia. Più volte nel corso dell'esposizione a Federico è emerso che molti di questi canonici trentini hanno studiato al Collegio Germanico di Roma, al Collegio Germanico Ungarico, per meglio dire, tenuto dalla Compagnia di Gesù. Ecco, questo è molto interessante, il Vescovo di Trento raccomandava alcuni cittadini di Trento per questa carica, per essere ammessi al collegio germanico. E lo Zambaiti è uno di quelli che viene ammesso e studia per 5 anni e mezzo al collegio germanico. È molto interessante questo punto, perché? Perché estende una serie di rapporti molto che gli saranno molto proficui per il prosieguo della sua carriera, da un lato con ambienti romani, tra l'altro entra in contatto, diventa amico del Ganganelli, che sarà poi Papa Clemente XIV e certamente influirà sulla sua promozione ecclesiastica, ma soprattutto diventa amico di molti allievi del germanico, e nel suo epistolario ci sono moltissime lettere di prelati boemi, ungheresi, della Germania meridionale, fiamminghi, che questo epistolario è molto interessante. Questo tipo di rapporti molto interessanti, si prolungano molto nel tempo, questi rapporti molto di familiarità con i compagni, diciamo così, del collegio germanico, e si descrivono vicendevolmente le rispettive situazioni delle rispettive diocesi, delle possibilità di carriera, eccetera, e si danno dei consigli anche su questo aspetto. C'è poi tutto il problema molto interessante sulle interessi culturali di questi allievi del germanico. Ecco, come molto spesso succede, ci sono alcuni che entrano in aperta polemica con le posizioni dei gesuiti, e è molto interessante appunto questo aspetto dell'epistolario, ma qui lascio perdere. Ma questo per dire come sia poi anche importante cercare di qualificare questi personaggi dal punto di vista della loro preparazione culturale. Ecco, lo Zambaiti, tornato a Trento, cerca in un primo tempo di diventare canonico. La prima volta gli va male, nel senso che è scelto un altro al suo posto, malgrado la raccomandazione del Ganganelli. La seconda volta gli va bene e nel 1773 diventa canonico. È molto interessante, subito dopo il vescovo, che evidentemente aveva caldeggiato questa entrata nel capitolo dello Zambaiti, cioè Cristoforo Sizzo, lo nomina vicario generale. Ecco, questo è un aspetto che andrebbe abbastanza indagato, cioè, a proposito anche rispetto a quello che diceva la Federico, cioè in questo caso si ha l'impressione che prima di tutto lo Zambaiti aspiri a diventare vicario generale, però per questo sia necessario che sia canonico. Questo è molto si rovesciano un po', anche perché da un documento relativo all'epoca bavarese, quindi siamo nel 1807-1808, in cui lo Zambaiti deve dichiarare quali sono le sue entrate, risulta che come vicario generale aveva un'entrata notevole, sia tra gli incerti, ma anche per quello che era propriamente il salario di vicario generale, si arriva a 1600 fiorini, il che non è affatto poco, cioè è anche di più di alcune prebende capitolari nello stesso periodo. Lui sommava naturalmente anche la prebenda capitolare. Comunque già di per sé le entrate come vicario sono notevoli. Ecco, e qui si apre l'aspetto più interessante, cioè lo Zambaiti alla morte del Sizzo, del vescovo Sizzo nel 1776, viene nominato dal capitolo vicario capitolare, cioè nel periodo di sede vacante continua senza soluzione di continuità, quindi l'attività di amministrativa della diocesi da parte di questo personaggio viene confermato dal successivo vescovo, che è Pietro Vigilio di Thun. Ora, Pietro Vigilio di Thun, che era anche canonico di Salisburgo, se ne sta spesso a Salisburgo o nel suo castello in Val di Non, Castel Thun, appunto, Castel Tono. E quindi questa è una fortuna, tra virgolette, dal punto di vista delle fonti, perché c'è un carteggio molto frequente in questi periodi di assenza col vicario generale. periodi di assenza, ma che non significano affatto disinteresse del vescovo principe per il controllo, per quello che succede. Anzi, da un certo punto di vista, ecco, questo è che i dubbi che mi sorgono se in che cosa poi significhi propriamente la residenza. Cioè, questo principe vescovo, in fondo, proprio stando a Salisburgo, stando molto a lungo in certi periodi, soprattutto negli anni cruciali 80 a Vienna, in realtà dirige da lì la sua diocesi tramite lo Zambaiti. Ecco, questo è molto interessante, cioè c'è un carteggio, purtroppo non conservatosi completamente, ma a volte di una o più lettere alla settimana, anche una ogni due o tre giorni, con immediate risposte dello Zambaiti, in cui proprio viene autografe in gran parte del Thun, oppure non autografe ma con post-scriptum autografi, post-scripta autografi quando riguardano problemi specifici, per esempio le nomine a certe parrocchie. Allora la lettera è vaga, il post-scriptum indica chiaramente dei nomi. Ecco, c'è un costante rapporto diretto tra il vescovo e il suo vicario generale. Rapporto che è di subordinazione del vicario generale, in gran parte. Cioè non è che se il vescovo gli dice per la tal parrocchia nomina il tale, il vicario generale non fa opposizioni. Ma a volte su problemi molto specifici della diocesi, una richiesta di consigli da parte del vescovo al suo vicario generale. Prego. Prego, potrei finire qui. Ecco, c'è un punto molto interessante di questo carteggio, perché tutto poi non si riduca a questi aspetti, cioè questo carteggio è molto interessante anche per capire poi in concreto l'impatto di quello che chiamiamo giuseppinismo sul concreto funzionamento di una diocesi. Ecco, e qui da questo punto di vista si palesa apertamente, certo qui siamo in una diocesi che è anche principato vescovile, che ha i confini meridionali dell'impero, eccetera, ma si palesa la posizione ambigua in un certo senso, proprio per il processo che mi pare che si possa delineare, dei vescovi rispetto a certe misure. Rispetto a certe misure che da un certo punto di vista accrescono che accrescono la loro giurisdizione, per esempio sugli ordini regolari, ma che d'altra parte li pongono in una situazione molto delicata per quello che riguarda la Curia Romana. E questa posizione del Thun e anche dello Zambaiti emerge con estrema in una evoluzione molto precisa e accelerata a partire soprattutto dai tardi anni 70 e poi con un momento di grande tensione avvertibile in queste lettere al momento della promulgazione dell'editto di tolleranza. Ecco, qui anche se per quello che riguardava la diocesi trentina, a differenza di altre diocesi come quella di Salisburgo, non c'erano grossi problemi da questo punto di vista, però ecco, qui si ha una frattura molto precisa, problematica molto precisa nell'atteggiamento che si debba assumere da parte del vescovo. E questo emerge chiaramente molto di più da questo tipo di fonte che non dall'altra fonte, peraltro molto importante, che è il carteggio, diciamo così, ufficiale della Cancelleria Vescovile, che è conservato all'Archivio di Trento. Quindi volevo segnalare per tanti aspetti questo tipo di carteggio che è conservato alla Biblioteca Comunale di Trento, perché mi pare che possa essere un caso assolutamente particolare, specifico, ma interessante per poter poi studiare meglio sia le figure di questi vicari, sia in generale quello che significava il governo di una diocesi. Benissimo, direi che è stata un'esemplificazione molto utile e aggiungo che nel frattempo è maturata una domanda di Angelo Torre. Avevo due o tre curiosità rispetto a quello che ha detto Donati, e cioè mi sono chiesto, ascoltandolo, se questa, diciamo, rinascita episcopale di cui che ha segnalato e che mi trova d'accordo, non sia anche connessa, non so quanto, ma io l'ho trovata, diciamo, con una serie di risorse proprio politiche in senso stretto, clientelari, che la soppressione dei conventini degli anni 50 apre ai vescovi, nel senso che molti conventini, temendo la soppressione, si rivolgono al vescovo, al diocesano, sperando di essere protetti. E mi chiedo se questo poi abbia, come dire, dei riscontri romani, ecco, che io non ho poi seguito. Dall'altra parte mi sembra anche, almeno nei casi piemontesi, che con la fine degli anni 40 e probabilmente anche con la guerra del 600, quindi anche con la guerra, come dire, cada un po' la vocazione diplomatica, la vocazione proprio, non l'impegno diplomatico, ma così un atteggiamento che ha l'autorità diocesana nell'informare per esempio il principe di movimenti di truppe, di complotti e cose di questo genere. Mi chiedo se anche questo, se anche questo cadere di attitudine non possa aver determinato, diciamo, un mutamento, no? nella cultura episcopale. Invece volevo aggiungere una cosa su quello che ha detto Bizzocchi prima, e cioè che io sono perfettamente d'accordo con questa idea di mobilità, no? Che la frequenza dei conflitti tra chierici e laici dimostra. No. Però certamente sono perfettamente d'accordo nella necessità di constatarla. Il problema è poi come la spieghiamo, questa mobilità. No? A me pare che dietro, ma l'ha detto anche lui, però forse io penso che andrebbe esplorato sistematicamente, mi sembra che il problema sia il senso che hanno le ordinazioni sacerdotali, che ha la presenza del clero minore. Io direi la formazione del clero minore nei singoli villaggi, nelle località periferiche. Nel senso che, insomma, è un problema, vabbè, enorme, ci abbiamo provato in tanti, no? a dare delle risposte, lo stesso Donati, no? Toscani, eccetera. Mi chiedo se la presenza del clero non sia legata non soltanto al quadro fiscale della comunità, ma a diciamo, dimensioni più profonde e diffuse, e cioè alla struttura della parentela. Nel senso che la presenza di un chierico all'interno di una parentela modifica la configurazione della parentela, perché soprattutto se ci troviamo all'interno di una strategia di fondazione di beneficio, crea una parentela che dei legami di parentela che travalicano le generazioni e quindi, come dire, scompagina il quadro di una, chiamiamolo orizzontale, di una parentela, diciamo, tra cugini e cognati, per arrivare invece a una configurazione della parentela, diciamo, lungo un asse ereditario diretto, nonno, padre, nipote. Cioè, solo queste due cose. Dunque, intanto ringrazio Torre perché con la prima domanda ha posto giustamente un problema che, io l'avevo detto, per lo schematismo necessario, ma purtroppo reso indispensabile dal tempo, il mio quadro è risultato, spero, non troppo unilaterale, ma certamente incompleto. Ecco, qui c'è sicuramente questo grosso tema che non lo so quanto, che non è certamente di facile risoluzione. Il tema è questo, secondo me. Cioè, fino a un certo momento la prevalente azione del papato, della Curia Romana, va nella direzione di una riforma del clero regolare. Cioè, in un secondo momento mi pare di avvertire una molto maggiore attenzione per il ruolo che può avere il clero secolare e in particolare quindi gli episcopati per un rafforzamento delle strutture, dei diritti, dei privilegi ecclesiastici. Ecco, questo è certamente la grande inchiesta sui conventini di Innocenzo X, è, come sappiamo tutti, una fonte eccezionale per noi. Ecco, la domanda è se raggiunge tutti gli obiettivi che voleva porsi. Ecco, quindi da questo punto di vista io sarei molto prudente nel vedere di sicuro un rapporto causa-effetto tra le due cose, però certamente è un problema che dobbiamo porci. Anche qui molto schematicamente si potrebbe dire che fino a metà 600, ma in realtà anche più avanti, insomma, vabbè, Montesquieu parlerà di Italia paradiso dei monaci, ma insomma fino, diciamo, la tendenza preparano due tendenze diverse. Uno, la diminuzione del ruolo dei regolari all'interno della Chiesa, e da questo punto di vista, anche qui però con estrema prudenza, le soppressioni dei governi nel secondo Settecento e nel primo Ottocento in fondo colpiscono forse dei corpi già indeboliti all'interno della Chiesa, e dall'altro il forte emergere degli episcopati, che però sarà poi soprattutto, ecco, io forse questo non l'ho detto, ma secondo me sarà soprattutto un fenomeno che è del tardo Settecento e dell'Ottocento, ecco, più che cioè proprio il ruolo assolutamente premiere, però non voglio spingermi oltre questa direzione, però mi pare giusto, anche se con un po' di temerarietà, di porre questi grandi problemi, e quindi ha fatto bene anche Torre a dirlo. La seconda cosa, beh, forse non ho capito perfettamente la domanda, cioè mi pare di capire che lui intenda dire, anche se poi il caso piemontese può avere dei riflessi abbastanza peculiari rispetto ad altre realtà italiane, comunque che nelle vescovi si avverte un venir meno di vocazione diplomatica, e dall'altro, e quindi credo che voglia dire in corrispettivo una maggiore attenzione di carattere, non lo so, amministrativo e pastorale insieme, ecco. E questo, per esempio, è un elemento, cioè c'è un dato incontrovertibile che si può documentare anche semplicemente attraverso la gerarchia cattolica, cioè che progressivamente nel corso del Seicento le figure del nunzio e del vescovo si separano. Cioè fino a una certa data ci sono moltissimi nunzi che sono vescovi. E chiaramente quello è uno dei casi più eclatanti, e anche di casi di coscienza di molti di questi vescovi che dicono: ma se io faccio il nunzio, come faccio a risiedere? Se io sono nunzio a Parigi, come faccio a risiedere nella diocesi di Gaeta? Ecco, cioè questo è il problema. E quindi comunque sono personaggi di grandissimo spessore diplomatico. Progressivamente la carica di nunzio viene affidata a vescovi in partibus, cioè vescovi che non sono titolari di una diocesi effettiva, e invece i vescovi effettivamente risiedono. Quindi questo è senz'altro, per esempio, un elemento interessante da tenere conto. Quanto proprio a questo aspetto della collaborazione dei vescovi coi sovrani, ecco, questa era l'altra domanda. Qui non so, c'è il punto, non a caso, poi con Vittorio Amedeo II e dopo ci sarà questa crisi. Comunque qui non saprei, qui dipende anche dai vescovi, cioè io non sarei molto meccanico da questo punto di vista, cioè un vescovo è... certamente c'è la tendenza da parte dei sovrani a nominare o a far nominare, se non hanno questo diritto di presentazione, vescovi che siano propri sudditi, cioè questo è un dato di fatto. Però per l'Italia Sabaudi esclusi, non è sempre così. Ecco, quindi da questo punto, però francamente su questo aspetto so di non aver risposto adeguatamente, ma non saprei, forse bisogna qui sì vedere abbastanza caso per caso, cioè ci sono vescovi assolutamente collaborativi, ma anche che addirittura spesso vivono alle corti dei sovrani e sono nello stesso tempo... vescovi cortigiani, anzi in Spagna c'è proprio spesso il termine dei cortesanos che viene attribuito a dei vescovi suffragani che in realtà poi stanno alla corte, però secondo me questo non lo so benissimo, non saprei rispondere in modo definitivo su questo punto. Sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Torre. Sì, mi veniva in mente che c'è stato un po' di anni fa un dibattito che oramai è un po' fuori moda, soprattutto fra gli americani, sulla composizione della famiglia italiana fra il basso medioevo, prima età moderna, e la famiglia nucleare, oppure il grande clan allargato, eccetera. La gestione dei benefici ecclesiastici è uno dei... che loro poi trascuravano anche. È uno degli aspetti decisivi della tenuta o meno di un sistema allargato, perché naturalmente lì ci sono giuspatronati comuni che anche in un momento in cui magari tanti altri interessi economici sono oramai distinti e ogni ramo va dalla sua parte, c'è ancora al limite anche forzatamente una logica di parentela. Questo è un caso poi diverso nel tempo e si tratta di benefici vecchi e non di nuove ordinazioni, ma chiaramente quella sarebbe una via da indagare. Prego, il professor Benard. Vorrei domandare qualche cosa al signor Stauber dalla traduzione. Sì. Ich möchte etwas fragen zum Vergleich von Deutschland und Italien. Bei den Visitationen in Deutschland, Herr Dr. Lang wird es bestätigen, im 16. Jahrhundert ist es immer nötig, dass die staatlichen Gewalten, also der Herzog oder der Fürst, sein Einverständnis gibt. Ein Beispiel, die große Visitation von Bayern, von der Sie gesprochen haben, 1560 wäre ohne die Zustimmung des bayerischen Herzogs gar nicht möglich gewesen. In Bayern, in Österreich, in Jülich-Kleve muss überhaupt der Staat die Organisation und der Staat die Visitation in Gang setzen. Meine Frage ist, spielt bei der Visitation in den italienischen Diözesen der Staat, der Großherzog, die spanische Regierung, der König von Neapel, spielt die irgendeine Rolle? Oder auch Venedig, die Stadt, also die weltliche Regierung eine Rolle, oder macht das der Bischof ganz allein? Im 16., 17. Jahrhundert ist es in Deutschland noch sehr stark, dass der Staat zumindest einverstanden sein muss oder den Anstoß geben muss. Und ich möchte gern diese Frage stellen. Vielleicht kann Herr Stauber... Allora, il professor Ziegler voleva domandare che, vista questa esperienza tedesca, che sapete tutti è molto diversa della situazione italiana, vista che abbiamo allora il vescovo che è anche a eseguire un potere secolare, no? In questo caso siamo veramente qui in una zona di passaggio, perché Trento è l'ultimo posto, tranne allora lo Stato della Chiesa, dove allora il vescovo è anche capace di eseguire un potere secolare, fa parte dell'impero, chiaramente fa parte della Germania, di Scimarini però, ma questo non è il discorso. Allora nell'impero, nel 500 e ancora nel 600, questa è l'osservazione del professor Ziegler, per le visitazioni sia allora nei territori riformati sia nei territori cattolici, è sempre decisivo il ruolo dello Stato, cioè delle autorità secolari che danno l'iniziativa per ogni tipo di riforma, per ogni tipo di visitazione. Per noi allora, per fare questo paragone fra le situazioni in Italia e Germania nell'impero, sarebbe allora interessante avere qualche osservazione, come cosa si può dire, allora è una domanda molto generale, sul ruolo che segue allora le autorità secolari, il Granduca, un re di Napoli, in tutto questo campo che abbiamo discusso o che discutiamo in questi giorni. No, c'era niente da dire di mio. Dicevo che questo articolo che ho citato di Cecilia Nubola, che continua a non esserci, mi pare, che è ancora non pubblicato, ma che sarà pubblicato in un volume dell'Istituto, è proprio su questo tema che il professor Ziegler ha sollevato, con paragoni di vari paesi europei. Però con questo non è che voglio rimandare la risposta, quindi adesso intanto Mazzone risponde. Scusate, un attimo solo, volevo avvertire che chi è interessato alla dimostrazione al computer può trasferirsi là e forse la discussione può continuare.